Noi abbiamo detto intanto su Futura che è un progetto giusto per quella parte di città, per una parte di città, un quartiere ingiustamente spesso messo ai margini, che ha bisogno di investimenti pubblici e quindi è coerente con la nostra idea di città. Questo non significa che pure nelle contraddizioni politiche che ci possono stare, nel dissenso, qualcuno possa pensare che si possa essere trattato con la militarizzazione dell'intero quartiere come quello che sta avvenendo. Mentre invece noi pensiamo che deve essere rimesso nella discussione pubblica alla voce di delle persone che sono contro questo progetto, che hanno delle critiche da avanzare, come delle persone che invece sono a cuore di questo progetto e vorrebbero dire la propria su questo progetto, perché chi ha attraversato le strade, gli spazi del pilastro, sa che sono rappresentate entrambe queste visioni. Quindi insomma la vostra posizione non è ambigua, come mi sembra vi abbia accusato De Maria del PD? Non è ambigua perché ci sembra giusto allargare la discussione, ci sembra giusto fare in modo che si possano esprimere tutte quelle realtà che hanno qualcosa da dire, e infatti si sono espresse le realtà della società civile che al pilastro, guarda caso, sono radicate, dall'ARCI al CDH, che hanno detto cose di questo tipo, nel senso che vogliono discutere del progetto, vogliono migliorare il progetto, vogliono avere spiegazioni, e io penso che un'amministrazione che salda dei propri principi e delle proprie idee queste risposte le debba dare, e soprattutto non possa accedere all'idea che venga militarizzato un intero quartiere perché non so stare nelle contraddizioni. Nel comunicato di Coalizione Civica si fa riferimento anche ai processi partecipativi. Voi dite, insomma, sappiamo che a Bologna hanno qualche problema ed è per questo che c'è in campo la riforma dei quartieri. La riforma dei quartieri è un'occasione importante che tra l'altro avrebbe avuto un appuntamento proprio oggi per discuterne, che saggiamente è stato posticipato perché abbiamo cose importanti da affrontare nel quartiere, però guarda caso è un aspetto che riguarda il modo in cui riusciamo a interagire con la cittadinanza. I modi in cui le persone vogliono partecipare alla vita pubblica sono cambiati da quando c'è stata l'istituzione dei quartieri, ma anche dalla prima riforma. Se ti metti in testa l'idea di rendere più vicina l'amministrazione ai cittadini e cittadine, come minimo devi parlare con loro su quali sono i modi in cui viene percepito il quartiere e come si può migliorare. Sicuramente la partecipazione in modi è una cosa che va rivista per come l'abbiamo pensata fino a questo momento, e questa potrebbe essere l'occasione della riforma sul medio e lungo periodo. Nel brevissimo periodo, su questa cosa che ci riguarda al pilastro, bisogna tornare al dialogo. Ma quindi, insomma, per capire meglio, cioè i residenti che fanno parte del comitato Mubasta non sono stati coinvolti, non sono stati raggiunti da questi processi? Ci sono stati degli incontri pubblici e questo non si può negare, lo hanno detto anche le associazioni che hanno preso parola. Quando poi però c'è qualche cittadino che dice non ci basta, abbiamo ancora dei dubbi, a questi cittadini e questi cittadini bisogna dare una risposta, perché ci sia stato un percorso pubblico è indubbio, si può discutere se sia stato sufficiente o meno, quando ci sono dei dubbi bisogna dare risposta a questi dubbi.